bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 198 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Cari ascoltatori, quest'anno vi abbiamo abituato alle puntate speciali e anche questa è una puntata speciale, una puntata un pochino più corta, diversa rispetto alle puntate classiche del sabato, e questa puntata è dettata esclusivamente dalle notizie del momento. Parleremo insomma della presunta scoperta del bosone di Higgs, una notizia che ha fatto discutere moltissimo la blogosfera, soprattutto la blogosfera scientifica, e di questa notizia ne parleremo con un gradito ospite, un nostro vecchio ospite in realtà di Caccia Fotone, il dottor Tommaso Dorigo, fisico sperimentale presso il CERN e l'esperimento CMS. Buongiorno Tommaso. Buongiorno a te. Tommaso, prima di entrare nell'argomento, quindi prima di capire esattamente se è vera oppure no questa notizia della scoperta o almeno del segnale della presenza del bosone di Higgs, la prima domanda che ti devo fare è: che cos'è il bosone di Higgs per coloro che, ascoltatori assidui di Caccia Fotone, non ricordassero questa informazione che più e più volte abbiamo detto qui in trasmissione? Il bosone di Higgs è l'ultima, diciamo, particella mancante di un quadro teorico molto preciso che è stato fatto negli ultimi 40 anni della fisica fondamentale a livello subnucleare. Insomma, c'è un'organizzazione della materia che è compresa come composta da fermioni, che sono quarks e elettroni, e poi ci sono delle forze che agiscono su di esse, che li tengono insieme e creano i nuclei degli atomi e tutta la realtà che ci sta intorno. Queste forze sono trasmesse da dei bosoni vettori e che sono stati scoperti da Rubbia nell'83, i bosoni vettori della forza debole, che dà il nome al tuo programma, e poi c'è il bosone di Higgs, che è una particella ipotizzata oltre 40 anni fa, ma che ancora manca all'appello e che, diciamo, coronerebbe il quadro delle nostre conoscenze del mondo fisico subnucleare. La stiamo cercando al CERN di Ginevra, la sta cercando anche il Tevatron di Chicago, però manca ancora l'appello. Tommaso, però, ed entriamo subito nell'argomento della trasmissione, la ricerca del bosone di Higgs, questa è la domanda che ti voglio fare, non è esattamente uguale alla ricerca delle altre cose, cioè mi spiego meglio, non è che camminiamo su una strada, troviamo un sassolino diverso dagli altri, lo prendiamo in mano e diciamo questo è il bosone di Higgs, in qualche modo il bosone di Higgs lascia delle tracce e sono poi quelle tracce che ci danno l'informazione che esiste da qualche parte il bosone di Higgs, giusto? Sì, quello che noi facciamo è creare collisioni di altissima energia all'interno di questi giganteschi detectors sotterranei al CERN di Ginevra, per l'appunto gli esperimenti ATLAS e CMS osservano il risultato di queste collisioni tra protoni che avvengono un'energia sufficiente a creare nuove particelle, per esempio stati massicci di anche alta massa, come quello che si pensa sia il bosone di Higgs. Avendo una sufficiente energia se ne può produrre un numero sufficiente da rendersi conto che si produce sempre la stessa particella, che ha sempre le stesse proprietà, che decade subito istantaneamente, ma sempre nello stesso modo, che ha una ben definita massa e ben definite proprietà. In particolare, se vogliamo parlare di quello che ATLAS non ha pubblicato, perché si tratta comunque di un risultato preliminare non ancora pubblicato e che non è detto verrà mai alla luce, parla del decadimento di questa bosone di Higgs in una coppia di fotoni di alta energia che poi vengono rivelati nei rivelatori. Il fatto che questi fotoni, la loro energia ci permette di ricostruire la massa della particella ipotetica che li ha generati, si trova sempre lo stesso valore, allora si può dire ho visto una nuova particella. Però c'è un'analisi statistica estremamente complessa che ci sta sotto, ovviamente stiamo semplificando le cose. Tommaso, quindi la notizia della presunta scoperta del bosone di Higgs per la prima volta, dove è apparsa? Come si è sviluppata, insomma, questa notizia di cui da 2 o 3 giorni sta discutendo la blogosfera? Sì, mi pare che tre giorni fa, qualcuno ha lasciato un commento anonimo in un seguitissimo blog di un fisico matematico statunitense, il mio amico Peter White. In questo commento anonimo diceva che ha lasciato proprio l'abstract di questa nota interna dell'esperimento ATLAS, che osserviamo il decadimento del bosone di Higgs in 2 fotoni, vediamo che la massa è di 115 GeV, che è proprio il valore che ci si aspetta più o meno, e sembrava molto, molto forte come toni, cioè abbiamo scoperto questa particella, ecco. Questo porta con sé tutta una serie di considerazioni, perché non ci si aspetta che gli esperimenti del CERN possano ancora vedere il bosone di Higgs decadere in questo modo, che è un modo molto raro, solo una volta su 1000 il bosone di Higgs decade in 2 fotoni. Allora c'è stato questo commento anonimo, Peter White ha deciso di eleggerlo a un posto indipendente e questo ha generato un interesse sia di altri blogger che poi della stampa. Nel mio blog, dove parlo anch'io di questa cosa, ho raccolto una ventina di siti che ormai parlano di questo segnale. Tommaso, nel tuo blog intitolato A Quantum Diaries Survivor, insomma uno dei blog forse più visitati nella blogosfera scientifica, hai scritto un post: Did Atlas Just See the Higgs? E all'interno di questo post provi ad analizzare questa notizia e soprattutto provi ad analizzare i dati che sono a nostra disposizione. In qualità di fisico sperimentale, qual è il tuo parere su tutta questa vicenda? Sì, allora chiariamo che dunque l'articolo è privato, è della collaborazione Atlas. Io non sono un membro di Atlas, ma dell'esperimento concorrente, quindi non ho accesso all'articolo. Ho letto l'abstract, dall'abstract si possono dedurre parecchie cose. Io ho detto alcune cose nel mio blog, allora le possiamo riecheggiare qui. Semplicemente, questa non può essere un bosone di Higgs previsto dal modello standard, perché se visto con le caratteristiche elencate in questo abstract ha una frequenza di apparire nei dati dell'esperimento 30 volte superiore. E siccome la teoria, se c'è una cosa che sa fare bene, è prevedere quante particelle vengono prodotte in un certo campione di dati, questa particella è un bosone di Higgs anomalo, diciamo 30 volte più frequente di quanto ci si aspetta. Poi c'è da dire che questa particella, questi dati di cui non sono in possesso ovviamente, né altri al di fuori di Atlas, quindi c'è quelli di Atlas che ne sono in possesso, non ne possono parlare perché il risultato non è pubblico, ma si può guardare i dati che Atlas ha pubblicato a marzo scorso proprio sulla ricerca del bosone di Higgs che decade in 2 fotoni. Su circa il 60% dei dati di cui dice di basarsi questa nuova nota, erano già stati pubblicati e c'è una distribuzione di massa dei dati, delle coppie di fotoni in cui dovrebbe apparire questo segnale del bosone di Higgs, che è stata usata da Atlas solo per mettere un limite all'esistenza di questa particella, cioè il risultato è stato negativo per il 60% dei dati. Questo è un risultato pubblico della collaborazione Atlas, invece questa cosa non è un risultato pubblico e io sinceramente penso non lo diventerà mai, almeno non nei toni in cui è scritto questo abstract. Da quella distribuzione di massa ricostruita da Atlas si può dire che c'è un piccolo accenno a un accumulo di eventi che hanno sempre la stessa massa, quindi potrebbe essere un primo segnale di una particella che decade in 2 fotoni, però è completamente in accordo con il fatto di essere semplicemente processi di background, cioè col fatto che non ci sia questa particella, e si tratta comunque di fluttuazioni statistiche del tutto normali che non vogliono dire niente, ne vediamo a centinaia tutti i giorni nei dati che analizziamo. Cioè, si lascia sempre la possibilità, insomma, che il risultato sia semplicemente dovuto a qualche effetto statistico o qualche misinterpretazione sistematica dei processi di fondo concorrenti. Quindi diciamo che da questo io ho dedotto che si poteva scommetterci sopra qualcosa, che questo non sarebbe un segnale che poi verrà confermato dall'intera collaborazione. Devo anche dire una cosa, io mi scuso pubblicamente con i miei colleghi di Atlas se sono invitato a parlare di una cosa di cui non dovrei parlare, nel senso che tra professionisti non si commentano i risultati, i non risultati, quindi le cose interne delle altre collaborazioni. È vero però che c'è tutto un segmento di pubblico a cui piace la scienza, che seguono queste ricerche, che vogliono sapere che cosa sta succedendo. Allora, vi possiamo dire che non c'è nulla di cui eccitarsi troppo, c'è semplicemente un risultato non ancora rivisto e approvato dalla collaborazione Atlas, che è probabilmente il frutto di una fluttuazione statistica. Diciamo allora, nella migliore delle ipotesi è una nuova particella, nella peggiore delle ipotesi è semplicemente rumore di fondo. E poi diciamo anche una seconda cosa, in realtà non saresti il primo che parla di questo abstract, di questa notizia, senza essere membro di Atlas. Sì, allora la prima cosa che hai detto è divertente, perché uno potrebbe prendere questa affermazione e dire beh, c'è la possibilità che sia una nuova particella o che non sia una nuova particella, quindi al 50% delle... In realtà sappiamo che una delle due ipotesi è molto, molto, molto, molto, molto più probabile dell'altra. Quanto al fatto del punto 2 che dicevi, sì, io non sono un membro di Atlas, questo risultato semmai verrà commentato quando sarà pubblico da Atlas, non da altri. Senti, siamo ormai in fine di trasmissione e ti volevo fare una domanda che piuttosto sul come si è diffusa questa notizia. In realtà questa notizia parte da un commento apparso su un blog. Questo commento diventa un post, il post viene pubblicato da un blogger molto famoso, tutti quanti lo richiamano, diventano notizia e a quel punto tutti quanti ne parlano. È interessante capire dal punto di vista mediatico che una notizia non notizia diventa notizia se ne parla qualcuno, diciamo, apprezzato nella blogosfera. Sì, questo è molto vero ed è una cosa che ho osservato e ho avuto modo di discuterne. Perfino 2 anni fa sono stato invitato al Conference on Science Journalism e ho fatto proprio una discussione su questo fatto, sul fatto che queste scoperte scientifiche a volte... io ho proprio previsto che il bosone di Higgs la prima volta che ne sentiremo parlare sarà in un commento anonimo, un blog, perché questo è il modo in cui le notizie poi escono pubbliche senza che una collaborazione lo permetta, perché si parla di collaborazioni di 3.000 persone, figuriamoci se non c'è qualcuno che vuole fare il birichino, diciamo. Si tratta di un modo un po' particolare con cui queste notizie escono, e diciamo che i blogger hanno una responsabilità, nel senso che poi decidono di cosa parlare e di cosa non parlare. In questo sono anche mal visti dalle collaborazioni scientifiche, io stesso ho avuto diversi problemi sia con la collaborazione CDF che CMS, per quello che scrivo o non scrivo nel mio blog. Però poi la responsabilità vera e propria finale, parlo di un livello alto, come in certi casi c'è stato, questi tipi di segnali sono stati poi riecheggiati in giornali a tiratura nazionale, il New York Times e quant'altro. E diciamo che c'è una bella differenza tra un risultato pubblicato che poi viene discusso in un blog e invece un commento anonimo in un comment thread, no? E finché non c'è uno statement diretto dall'esperimento, un giornale serio dovrebbe stare un po' attento a che cosa pubblicare e che cosa non pubblicare. Ovviamente è interessante, comunque è eccitante, può portare i lettori a volerne sapere di più, quindi se ne parla. Io non credo che questo danneggi la scienza, io non credo che ci sia questo effetto di media fatigue, si chiama, cioè che a un certo punto i media smettano di trattare della ricerca del bosone di Higgs. Io penso che invece, sì, magari i giornali potranno anche occuparsene meno, ma i lettori appassionati ci saranno sempre, le persone che cercano queste informazioni nei blogs ormai sono la maggior parte, il web 2.0 ha cambiato un pochino il profilo, la configurazione di come si cercano le informazioni nei giornali e in rete. Chiaramente chi cerca informazioni di scienza lo fa meglio andando in posti come i blog, dove le cose vengono fuori più rapidamente, anche se magari in maniera non filtrata. Tommaso, ti faccio l'ultima domanda della trasmissione. Qualche anno fa, quando venni a Padova per parlare con te sempre di argomenti come questi, di fisica teorica, di fisica sperimentale, tu mi dicesti nel fuori onda, testuali parole, che trovavi più interessante che presso il Large Hadron Collider in realtà non venisse mai scoperto il cosiddetto bosone di Higgs. Sei ancora di quel parere oppure no? Sì, sarebbe sicuramente interessante se non si trovasse il bosone di Higgs. L'LHC sono stati investiti molti soldi per vedere questa particella, ma anche per scoprire anche altre cose, nuova fisica che ci può, anzi molti pensano ci debba essere oltre il modello standard. Posso dirti una cosa però, se non viene trovato il bosone di Higgs, ma non viene trovato nemmeno nient'altro, beh, sarebbe sicuramente molto interessante, ma sarebbe anche devastante per il campo di ricerca in cui io opero, che è quello della fisica delle particelle, perché sarebbe molto molto difficile convincere i funding agents, cioè gli enti che finanziano la ricerca fondamentale, a sganciare i soldi per costruire qualcosa di ancora più potente e continuare questo tipo di ricerca della fisica fondamentale. Quindi diciamo che sarebbe bene che, se non scopriamo il bosone di Higgs, vediamo almeno qualche indizio di qual è invece il modo in cui le particelle acquistano una massa nel modello standard e di qual è il motivo per cui le cose stanno nel modello teorico che abbiamo di fronte. Se non c'è il bosone di Higgs, va cambiato molto di questo modello teorico e deve esserci qualcos'altro da scoprire, altrimenti siamo un pochino fregati, diciamo. Tommaso, allora grazie per la disponibilità, l'appuntamento a tutti voi è per sabato, la classica trasmissione da mezz'ora di Cacciafotone, e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Tommaso, grazie. Grazie, saluti, ciao ciao.